сообщение дальнобойщику. Автоматическая трансляция. Приготовьте записать номер телефона. Осуществляем полное техническое обслуживание автономных отопителей. Улыбаться. Это штука. Теплоспокойно. 926-41-43. 926-41-43. 926-41-43. Hola, attenzione 10. Hola, attenzione 10. Canale 10, c'è qualcuno? Chi è qua? Hola, attenzione c'è 10. Hola, attenzione canale 10. Ci sei allora? Adesso ho acceso. Neanche due minuti. Sto facendo roba al computer, mi stavo scaricando della roba. E ha giù finito. Senti, già fatto se tu è. Non ti manca mai cose da fare, così è. Io ero grillo, non mi mancava. A proposito, acqua la ne hai, no? No, è catta, la stamattina presto che mi ha catta. Speriamo che venga stanotte, catta, il macello è. Me l'avevo detto, me l'ho dimenticata a farmi le provviste, ma già ce l'ho un po' ancora. Catta, speriamo che venga, perché c'è tutta ancora la roba da sciacquare, e ancora dentro il lavandino. Sì, vabbè. Ma mi ha detto che era nel giornale di ieri. Oh, io ho dirigito, però non venne. Certo. Lui mi ha detto, dice, oh, c'è nel giornale. Allora, dirigito non l'ha già avuto. Certo, nel muove andiamo. Dovrà tornare, si potrà, se no si rabbiano i suoi paesi, si rabbiano, che si rabbano, ogni chiede la parte ne mancavo. E allora, non c'è, con sede e facendo, ma speriamo che venga stanotte, ce l'ho per i soldi, per domani mattina, speriamo che venga stanotte, è un macello, cazzo, è un macello veramente, gatta. Ma cosa vuoi fare? Non si può fare niente, tanto loro sfasciano. A me me l'hanno detto, stavo facendo una visita oggi, e me l'hanno detto loro, oggi manca la cosa, così infatti mancata. Adesso aspettiamo che venga. Ebbene, sotto meno un quarto ha cominciato a abbassarsi piano piano. E se n'è andata via, le 8 meno un quarto se n'è andata via. Ma roba la massica, ma come fa? Cazzo, dice che c'è sul giornale, cazzo, è che non ne legge il giornale, come fa? Chi su è? Perché non ne legge il giornale, no? Possono mettere anche sul telefono, possono mettere anche. Cioè, avvisare la gente anche tramite il telefono oppure. Invece no, solo in giornale la buona. Oh, a me me l'avevano detto Fancieri, che non mi va a mancare l'acqua oggi. Però non mi sono ricordato, diversamente faccio il campo, gatta, mi è scappato dalla testa e non ho rifiutato, no, c'ho anche due bidoni pieni e una decina di bottiglie, così che la ce l'ho ancora. Però mi sono dimenticato, così non avrei riempito anche i secchi e lavamani, gatta. Mi avrei fatto me la provvista come facevo sempre, ma mi sono dimenticato e cosa vuoi fare? Ma allora aspettiamo che venga più in fretta che possibile. Sì, infatti, i negozianti si stanno girando le scatole, l'hanno detto che si stanno girando le scatole con questi di Albanova. Caspita, che ogni settimana devono chiudere l'acqua, tutto il giorno devono chiudere. Quando mai devi darsi sempre i gusti, devi darsi, boh. Perché magari certi lavori la devono chiudere per forza, non possono lavorare con l'acqua corrente, capito? Anche questo è giusto, però boh, è un macello, il fatto sa che aspetta noi a pensare avere la provvista sempre disponibile, capito? Però certe volte ci dimentichiamo, ecco, succede il patatracca, cazza. Chi non lo sapeva di trovare in difficoltà veramente, e tu lo sai, secondo famiglia che manca l'acqua, cazzo, è un problema, Infatti, secondo che famiglia è difficoltoso, è proprio così, chiacca, non se ne può più, non se ne può, quando manca è una difficoltà enorme. Per carità, ragazzi. Ma non siamo noi solo, anche l'altra Italia ce ne sono certi paesi da parecchio, c'è la Sicilia che sono a secco. Ma la colpa è di loro, la colpa è di loro, perché se dovrebbero fare degli invasi e fare delle cose, invece ci hanno perdite in tutti i posti, ci hanno, ecco cos'è, ci hanno perdite in tutti i posti, non riescono a cavarne bene. Perché certe condotte, la vista, sono a collaborare solo, certe condotte, le condotte sono tutti sfasciati, tutti marci, i tubi, e che per loro la colza, per l'acqua si perde, e allora rimaniamo male noi, perché a noi non ci arriva l'acqua, perché si disperde sui campi, capito? Ma nella condotta che arriva da Bieriginzo, che l'aveva fatta la chiesa, era stata fatta nuova e tutto quanto era stata fatta, invece non ne vuole rampare di anno, cioè conza un pezzo ogni volta, ma conzani, e tanto ti manca gente, ti manca. Se continuiamo in questo passo, in estate siamo male, se non piove, sto a vero, i bacini sono vuoti, se non piove è un macello, in estate siamo più male veramente, speriamo che piova e ne faccia acqua, ma mi sembra che l'acqua la fa dove non deve fare, ragazzi. Lì al Medellinzo l'acqua c'è, ha voglia, venne un bel venne. Al Medellinzo 2 che si è abbassato un po', però l'acqua già c'è. Al Cuga che si è abbassato un bel. E da lì è la parte di Luna e Sole che fa le provvigioni. Cuga! Cuga va, caccia ai campi di cosa lì, della Lurra, caccia si è innaffiando a tutti innaffiare, io non credo che l'acqua manca, caccia, in quelle zone, caccia Cuga è volto anche per quello, perché stanno innaffiando, e non stanno innaffiando bene anche, perché l'acqua è razionata, che a quanto ho sentito, e per cui è un macello, deve piovere, sino guai. Lì per il coso della Lanurra si dovrebbe fare dei vasconi grandi, si dovrebbe fare per riempirsi i vasconi ogni tanto, ecco cos'è, invece di innaffiare si riempiscono i vasconi e si tengono i vasconi pieni, ecco cosa si dovrebbero fare, invece non se ne vuole fare. Chi sa male, per carità. Cazzo, andiamo bene, andiamo. E con questo passo in estate, più di una volta ce la fanno sospirare quest'acqua. Sì, no, ogni agheta ci può dire, ogni agheta devi mancare. Ma adesso piano piano comincio a pigliarmi le cose, mi posso lo coso io sul magazzino, mi posso. Anzi, prima giambo magazzino, giambo. Perché non voglio stare a montarlo e farlo. E me lo trasferisco proprio nel mio magazzino. E tu c'hai la possibilità di avere a metterti il serbatoio, già c'hai il posto. Cazzo. Io che non c'ho posto, se no me l'avrei fatto, ma non c'ho posto, troppa roba c'ho il magazzino e non posso fare niente. Ma tu già lo puoi fare, per cui cazzo. E in questo palazzo ce ne sono due che ce l'hanno, ma loro hanno il magazzino vuoto e loro hanno dovuto per forza farlo. Cazzo. E io però non lo posso fare perché c'è troppa roba, la butto, la roba buona, cazzo, non è possibile. Se non l'avrei avuto anch'io già da parecchi anni infatti, ma non lo posso fare, cosa vuoi fare? Devo sortirare così. Piano piano. Piano piano già. Ecco, con quel poco di acqua che ti rimane già ti basta, sino a domani mangiano a Puglia. Il macello questo. È un macello veramente. Cazzo. Guardi, ogni settimana sta mancando l'acqua, per carità. È in parecchia zona. La mia figlia lì, sotto Canada, non manca mai, lì c'è sempre l'acqua, non è mancata mai. È già un vent'anni che abita lì, non si è mai da metà che è mancata l'acqua, cara. Invece qua manca. È registrato. E a questa parte manca sempre che ho consegni, ecco cosa è. Avanti il breco. Buonasera a tutti, doppio rullo a questa parte. E allora, senza acqua siete? Ve ne dai un poco di duro. Ma io ve la potrei anche dare perché io ce l'ho. Io ce l'ho tutto clave, quindi. E fai bene, vedrai. Comunque buonasera anche a te. Avanti. È condominiale, dai. C'è la tua casa del condominio. Già è comodo, perché ti fa la riserva dell'acqua. Quando non c'è acqua dura dai 3 a 4 giorni, ce l'ha. E infatti così. E no, che vera robozzo. Io lo stavo cercando per attivarlo e fare cose e tutto. Allora invece hai tu non era fotti a nulla. E vabbè, ognuno ci arrangia con il TV. Se c'è il pozzo hai fatto tre. E infatti, avanti Giomari. Ciao già, buonasera. Un macello e faccio l'acqua. Almeno un macello, chi c'ha l'altro caso è già un altro conto, almeno c'ha la provvista e per cui per 2 o 3 giorni potrebbe andare avanti. Ma chi non ce l'ha, io ripeto, non ci posso a farmi, se no l'avrei messo in magazzino. Ma non ci posso, c'è troppa roba, non posso buttarlo. No, invece ce l'hai il posto, è ancora a farselo. Sa perché tu? A te ti conviene farlo, almeno ce l'hai l'acqua sempre disponibile. Il magazzino devo cambiare, adesso faccio di tutto per cambiare il magazzino e poi piano piano altro glielo metto a posto, anche se no non mi tocca, quando ce lo devi vendere l'appartamento mi tocca fare ciamba a cogli, devi dare, invece no, prendo e cambio magazzino e buco. Ci conviene sto, ci conviene. Avrei avuto un magazzino libero, sarebbe stato parecchi anni già fatto questo impianto, però non lo posso fare perché c'è troppa roba, per cui, e c'è roba anche di mia figlia, di mio figlio, così che non posso svuotarlo assolutamente, se non avrei avuto parecchi anni pure, ma speriamo che si serve il più poco possibile, perché ogni settimana sta mancando l'acqua qua già. E magari stanno facendo l'auguri e la staccano. Rebuse veramente. Ora, ma era male gli accendisori già a piedi dall'altra volta, dalla settimana scorsa. E se non sarei stato inguaiato veramente, per carità. Ma chi non lo sa che manca l'acqua, come farà se c'è la famiglia grande già? Ma a sacro cuore riempiva la vasca da bagno, i bidoni, e quando sapeva che doveva mancare l'acqua faceva la provvista, capito? La mia figlia lì sotto Caravano non manca mai l'acqua, c'è sempre. Cazzo, a noi ci lamentiamo, noi non siamo mai lamentata perché l'acqua c'è, è abbondanza pure, forse pure lì. Evidentemente c'è la condotta vicino, capire? L'acqua scende sempre lì. E magari c'è l'autoclave anche lì. Eh? Allora l'autoclave anche lì. Ma non è autoclave lì, no? No, ma l'acqua c'è sempre, capito? C'è la sempre fissa, ecco. Probabilmente era una vera vicino, che ne so. L'acqua, sì che ce l'hai non te ne accorgi, ma quando non ce l'hai, già le accovecchiati la mattina che ti devi lavare, non ti puoi lavare perché non hai acqua. È un casino, Cucinare, fare tutta l'acqua serve per tutto, noi poi. Il nostro corpo fa 75% di acqua, qui ti puoi immaginare se abbiamo bisogno di acqua. Magari per lavare un conto, una bottiglia si lava, ma anche per il bagno, capite? Il bagno è molto importante, se manca l'acqua, e cosa fai già? Ma scherziamo. Ma quella che usava per dire lavarsi, la mette per un secchio, quando andavano in bagno buttavano quella, la recuperava. Bisogna fare così, noi facciamo così, se noi lo sappiamo riempiamo tutti i secchi che cerchiamo di andare avanti così, capito? Per cui, però, quando lo sai, quando non lo sai è un macello, vai tu. Infatti così, quando non lo sai è un problema, ecco Mario. Io stamattina che non me ne ero bene, ho cominciato a io che manca di leva. Allora giù butto e mi sono messo a riempire la vasca e ce l'ho. Sì, ma infatti. Poi mi ricordo quando riempiva la vasca c'era tutto il terriccio in fondo, non sai quanto ne lasciava di purità. Quando ci avevo la vasca era tutto altro scuro, riempivi la vasca e andava bene lo stesso. Ma adesso la vasca non le ho fatto la doccia, per cui è un rebus, però ghiaccio i bidoni e i secchi, per cui bisogna arrangiarsi, ecco. No, io doccia non ne ho mai fatto, a me mi piace farmi proprio il bagno, dopo la doccia me la faccio, però mi piace stare a muro. Solo che adesso non mi fido molto, Giovanni, perché sono scivolato una volta e ho sbattuto la schiena, ho allaspato 2 o 3 volte e c'era il tappetino, ho allaspato 2 o 3 volte, ho sbattuto prima la schiena al bordo della vasca e poi la testa a terra sono svenuto, ero solo a casa. Vabbè, è pericoloso anche con la vasca, per poi scivolare anche, devi saltare, chi non può saltare c'è dentro, capito? Quello è fatto. Lui, no, specialmente mia moglie, non riusciva più a saltarci, così che abbiamo cercato di fare la doccia, capito? E per cui va bene così. Ma con la vasca era impossibile a entrarci dentro, capito? Così che magari quando è giovane è tutto un discorso, ma la certa età cosa fai già? Quello già è vero, non ci avevo pensato, grazie a Dio io ce la faccio ancora. Anche se oggi ero dall'ortopedico perché sono tutto a duri, mi ha dato pomate, lastre da fare 10 giorni di fisioterapia, da mettere un busto, guarda, praticamente mi ha detto di non fare nulla. Vabbè, io chiudo, che sta avendo ospiti, e poi grazie alla chiacchierata, già ci sentiamo alle prossime, altrettanto attore sono riprendita, io chiudo, a domani se coincide, ciao a tutti e due. Okay. Ciao Giovanni, ciao, buona serata, dai, buona continuazione, avanti. Ok Giovanni, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Giovanni, stammi bene. E così Gianni. Se no mi... bisogna prendere come facevano un periodo che era mancata al produttore, si spariva tutta l'acqua da bere, l'acqua come si permette. Cioè praticamente non è che non c'era l'acqua, l'acqua arrivava, ma arrivava con la ruggine dei rubinetti, quindi non si poteva né bere né cucinare, l'acqua come prendeva. E infatti era l'acqua... No, che quando arrivi, boh, diventa un po' gare tutta canta fare taglio, non si può trattare per nulla, devi fare un paio d'ore senza trattarla, per farla ritornare come prima. Invece quando fa le lavori, che ne sale tutta la ruggine, mamma mia, casino, eh. E questa qua, prima si usava per cucinare, mamma faceva anche l'acqua bici, me lo ricordo, con la frizzina, faceva l'acqua gasata. Prima si poteva bene, adesso non si può più No, io ho visto che quando arriva qua non si può adoperare al momento, però dopo di 3-4 ore l'acqua è limpida e si vede che è limpida l'acqua. Ma non è questione di limpidezza, non è questione che ci mettono metalli pesanti eccetera, capito, per ci mettono il cloro, il sapore del cloro eccetera. Dice sì. Io qua la sto la bolliamo l'acqua e si può adoperare a tutto, una volta che la bollisci svanisce tutto. E per cucinare quello usate quella del rubinetto? Una volta che si mette a bollire svanisce tutto, svanisce. La adoperiamo noi a cucinare anche. Io la compro in bottiglia, di quella bottiglia, uso quella, anche per fare il caffè. No, per fare il caffè nella macchinetta ci metto l'acqua di bottiglia, ci metto. Perché quella, se no la bollice fa tutto la ruggine e se ne piglia. No, ma infatti. No, si fa mai calcare, ti blocca la macchinetta, non serve più pure. Poi ti serve tutta gloria, vizza la mano, va, se ti dà gonfiata, non le diciamo villa, ne ha gasino, guarda. E praticamente mi ha detto arrangiati, dottor Pizzi, che devo andare a pagamento a fare 10 sedute di fisioterapia, comprarmi il busto che costa una bacata di rame. E praticamente mi ha detto non fa nulla. Allora ma te ce detto non fa nulla. No, è da mali tu. A comprarmi il busto che costava mi pare sulle 200 euro. O 300, adesso non mi ricordo. In più fare la lastra alla mano, in più mettere questa pomata, in più prendere queste pastiglie. Tutto a pagamento. Non c'è nulla che ci possano fare per la multa. È da dirsi, già si può fare, che te li possono rimborsare i soldi del coso, sì, del busto te li possono rimborsare, da chi ti vuoi far uscire? Ma io questa fisioterapia so che si può fare anche puntualmente, beh. Sì, già si può fare, certo, magari che l'ha detto che non si può fare, già si può farsi, ciò che li devi anticipare e dopo lo tappiamo delle dorrani. Boh, ti ha ordinato te, dottore Fammi? Ma tanti anni Fammi, ho fatto anche cose con il laser, l'ho fatto, a conto della Gassamuffa. E dove li fatti passare te? Certo, mi sono passato, fa sempre mi sono passato, dietro nella schiena, con il laser ho fatto queste 10 sedute avevo fatto, ma di tanto mi era all'ultimo, all'ultime cose mi era abbassato lo dolore. Hai visto? Tante volte basta fare quello che bisogna fare. E adesso io domando domani la dottore, faccio vedere il documento che mi ha rilasciato lo tuo figlio, vediamo un po'. Infatti, l'unica cosa è andare dal medico a vedere cosa ne c'ha fuori. Perché adesso c'è già il mestiere sta cosa. Intanto al posto non c'avevo nulla. Di corpo mi è venuto questo dolore, ieri mi si è gonfiata la mano, te l'ho fatta vedere, mi ha detto, ma lei ha avuto fratture, ma no. Magari c'è qualche frattura vecchia che è andata in coso, in reumatismo, e ha fatto questo, ha procurato questa roba. Facciamo la lastra, vediamo un po'. No. Infatti è così, purtroppo non si può fare altro che vedere la lastra e vedere se c'è frattura o qualche altra cosa. Siamo tutti andelli e figli, anche sul tempo che fate venire i dolori. Ma io sono dall'estate così, con dolori alla gamba. Adesso la gamba mi stavano passando, cazzo mi è venuta la mano, oh io guarda. Certo che non è una cosa che andrà tra me. Già, sai cosa ti dico? Bisogna che siamo vari pezzi. Andiamo da tavù. Oh, questo non ha, questo fa pezzi di ferro e basta. Fa pezzi di ferro e basta. In demolizione dobbiamo andare, uscire. Quando siamo da rotta massimo. Ecco che c'è. Vabbè. È che bisogna fare più movimento, più movimento. Cioè non bastano i chilometri che ci sono conventi ogni anno con Lugani. Certo, non a passeggiare. Ti faccio un bel due romano di vozzo. E anche io ci sto mezz'ora col cane. Mezz'ora, a volte anche di più. Io faccio un bel giretto anche io. Ma non basta, bisogna fare ore di camminare. Sì, vabbè. No, io mi metto a girare molte volte, mi giro da dietro il campo, vado dietro il campo, salgo, farada, sada e tutto lo giro. Allora poi passo tutto in farada. Non lo posi dove c'era. Lì lo lascio libero, lo lascio un po'. Sta cominciando a correre, lo lascio libero e lo lascio andare, poi fa una decina di minuti e poi cominciamo a dormire. Oggi sono passate le guardie zuffine sotto casa, erano in borghese, ma io l'ho riconosciuto perché conosco gente e poi c'avevano la paletta in evidenza. Stanno andando e guardando, deve essere che hanno fatto qualche comunicazione lì, hanno fatto che per i pitbull. Sono andati dalla parte di via Rubini, hanno girato e fanno controlli così, ma secondo me i pitbull li chiamano anche loro. A me per dire, a Teso mi hanno dato una macchinetta loro e l'ho dovuto prendere io il crucifero, lo sai, anche della ringhiera. A me ci sono filmati, me la roba è bene. Hanno visto anche su il pitbull, l'hanno filmato. Non so cosa l'hanno fatto la contravenzione, che non va via Museruola. Sicuramente per arrivata la contravenzione. E così imparano. Ma io non ho mai visto un pitbull con la museruola, mai. Non gliela mette nessuno. Ma te la devi portare appresso, ecco cos'è. Te la devi portare appresso, invece non se ne arrigano. Ecco cos'è. Non sei in casa a girare adesso. A me me l'ha chiesto, dice, ma cattivo è. Ha detto scenda e lo faccio vedere. Se ne è farato, si è avvicinato, si è piegato e se ne è andato a girare. Ha detto, questo è il cane che è più bravo di lui, non ce n'è altro. Ma libero ce l'ho visto. No, c'è la guinzaglia, ce l'avevo. In realtà qua non lo tengo libero, lo tengo solo dove ci può tenere. Da nessuna parte, a meno che sia un posto chiuso privato, non lo puoi tenere libero. Sempre a guinzaglio devi tenere il cane, per gestirlo bisogna tenere la guinzaglio. Poi c'è chi lo libera, c'è chi dice tanto è bravo il mio, però il fatto che se lo liberi magari arriva quello cattivo e lo musica. Attenzione, troppa ripetizione. Gatto, segnale, radio, 4, cambio. Non si capisce nulla. Tu lo capisci tutto. Oh, fatto che comprendo io, boh. Oh, so come care. Luca M. Attenzione, abbassa quell'ecco, Lucrezia. Ottore non si va, ma la fai su, boh. Che scusa, Sapete che tu mi domanda che era? La voce non si conosciuta, Non si capiva un capo, era troppo alto l'ecco. L'ha fatto apposta, l'ha fatto. Luca, buonasera. Ciao Ettore, ciao Gianni. Questo voleva un coso al dente, cazzo. Quando mangio mi si incazza la roba nei denti. Interessante. Già, è merda, no? Più o meno. Se non la si sa, non vi aggrubiglia. Però l'ho mangiato, insomma, avendo il dente mio, in più il dente dove c'ho l'impianto, si incastra lì. Questa roba ce l'hai detto, ce l'hai. Oh, non l'ha fatti, cioè, già è cosa a me, io il mio uso colluttorio, altro che, solo che lì in casa ci vuole il filo interdentale. E c'ho i ferri anche, i ferretti per togliere la roba. Comunque siamo lasciati due pizze di pudding, un po' alte erano oggi, un po' alte, comunque, dai, va bene. E insomma, sono prosciutto cotto, che sono gudeccio. Ah, io le sto prendendo sotto casa e lui ti dico sono buone. Il pago 1,80€, tu quanto le paghi? 2. 1,80€ sotto casa. E sono buonissime, ti fai, certo c'è la macchina, adesso ti fai un salto sotto casa, le ordini le fanno sino a giovedì, poi venerdì e sabato e domenica no. Ciao, ma come lo fa a fare questo casa tua che ti pochi benzina? Boh. Ma c'è due botti che sono due basi. Vabbè, ma che tu hai ragione. Ancora di più di che sono un bel buono, le prendevo a 4 la butta per le mangiare. Tu quanto te ne mangi? Oh, 2, cazzo 4. Ma no che c'è un bel di fame, non ce la. Massimo ma che c'è. Forse 3 me ne mangio, ma 4 no. Io 4 è il numero ideale. Il numero ideale è 4 pizzette. Praticamente poi mi bevo anche una mattina di birra e sono da puro. Questa è la quella che ci metti sta tassa in cumilia. No, è così. Se tu tutto il giorno c'è la glicemia normale, anche se mangi le pizzette non ti sale. Se invece hai mangiato e c'è tagliata dalla mattina, allora sì. Ma vabbè, io non sono diabetico, era per te, capito? L'ha avuto l'altra volta un botto alto, 152 mi pare. Poi l'ho rimisurata ed è scesa 99. 99 o 102, se non mi ricordo. Poi ho avuto questo botto, ma ho mangiato un bel cazzato, ho mangiato, Roba dolce, sto mangiando troppa roba dolce, devo eliminare. Luca, bisogna vedere quando te l'hai misurata. Se te l'hai misurata appena mangiato è normale che tazza. Devi lasciare il tempo, devi misurarla dopo 2 ore che hai mangiato. Vabbè, ho fatto la prova, tu cazzo quanto è alta, minchia. Così non c'è mai salita. Dopo mangiato, cavolo. Adesso 120 così, 125, era 150 ero. E comunque tu devi stare attento perché tu hai diabetica e sei soggetto, Io facevo sempre il controllo, facevo sempre ogni anno la curva da carico. Per vedere se. E non me l'hanno mai trovato. Poi me l'ha trovato il medico del lavoro a me. Ah, vabbè, me sta sempre controllando le glicemie già, Adesso non ci guarda a furia, misurarmela. Me la sto sempre controllando, capito? 99, 100, 110, molte volte 89. No, tranquillo già. Io me ne accorgo, non sto strano, mi sento strano, ma grazie a Dio. E diabetico a casa c'è mio fratello grande. Poi c'è il penultimo, è mamma. capito. Io con quel sesso sotto controllo, dai. Quando faccio io gli analisi del sangue sto a posto. È meglio così, tu, augurati che non ti venga che un malano grave. Ah, c'era anche tuo fratello, io pensavo solo tua madre. No, anche fratello. Ciao, va, tizzone. Sì, bisogna stare attenti alla glicemia. Noi già viaggio sempre di massa. Massimo che c'è, che mi arriva a 750, non di più. Ma raro però, che mi arrivi così. Sono 110, 121. Cioè, da 99. In quelli volte 99 mi vara. Io anche 70, 75. Allora tra la mattina e l'ora di pranzo, me la misuro prima di pranzo e ce l'ho 70, 75 non vado. Poi la sera, prima di mangiare, me la rimisuro e sale un po', 135 e poi, 140. E poi che mi sale la notte, io me ne vado a letto con una glicemia di 130 e la mattina c'è un 205. La mattina molte volte mi sale anche a me un po', ma più di tanto. Un biglioro bene, è da voi, di 2 euro, me la misuro, c'è un pochettino alta. Non molto. Sale sempre di notte, anche se non mangi ci sale, pure è strano. Perché stai riposando e non fai movimento, capito? Ci sale. Avanti. Più niente, Luca, arriva, lo vai già. Perfetto pure, però, Adesso lo porto, fra un po'. Lo porto, come chiedete voi, lo porto. Io piace, lo sai perché? Perché ci sono le cagne in calore. E vuole scendere lì, da qui ti tiro la base all'altra, di bello diventa a mano. Lo so. Vabbè, io adesso mi metto la nanna, mi guardo, mi vado su TikTok così, metto le cuffie, prendo del collo, sonno, dai, alla domani, ciao Tore, ciao Gianni, buonanotte, alla prossima, ciao. Ciao, ci sentiamo, buona dormita, avanti. Ci sentiamo Luca, alle prossime, ok, e buona dormita. Già, e anch'io chiudo, me ne hanno appena per i bambini, qui sono già in ritardo. Ci risentiamo alle prossime già, ok, ciao. Ciao, Tosh, senti, ma stavo chiudendo anch'io, mi hai preso la parola. Ci sentiamo, dai, stammi bene, ciao. Ciao. Puerto Rico.